Vi presento il generale Sechi, disse il signor Muraki. La mattina seguente Aiwan aveva fatto colazione solo nella sua camera e dopo, ancora indeciso sull'attuazione dei suoi progetti, era entrato nella stanza che la famiglia soleva chiamare il salotto moderno. Preferiva ancora, nonostante tutto, le sedie moderne alle stuoie. In quella stanza c'erano grandi poltrone straniere, foderate di una stoffa pelosa di un brillante color verde. Anni prima, la sede centrale della ditta non era stata ancora trasferita a Yokohama, il signor Muraki aveva adocchiato la stanza in un grande magazzino e l'aveva comperata in blocco per poterci ricevere clienti americani ed europei. Ora, la stanza non serviva che in rare occasioni e Aiwan ci si era qualche volta rifugiato a leggere, o per rimanere solo in quella casa di tramezze scorrevoli. La stanza infatti aveva pareti e porte secondo la moda occidentale. Quella mattina, tuttavia, si era appena seduto e aveva appena acceso una sigaretta quando la porta si aprì improvvisamente, lasciando il passo al signor Muraki, seguito da una tozza figura in divisa. Aiwan balzò in piedi e il signor Muraki lo guardò stupito. Aiwan si inchinò. Il sangue gli era tutto affluito al cervello, lo stordiva col suo rombo enorme, lasciandogli il corpo freddo e debole. Vi presento, disse il signor Muraki al generale Sechi, il figlio di un banchiere cinese, signor Wu Yongxin. Il generale salutò Aiwan con un secco cenno del capo. Stavo per uscire, signore, disse Aiwan, rivolto al vecchio Muraki. No, no, disse il generale, rimanete. Sedette con difficoltà, anche perché impedito dalla divisa troppo stretta, la sciabola batté contro la sedia. Come volete, mormorò rivolto al generale Sechi il vecchio Muraki. Aiwan tornò a sedere, imbarazzato, questa volta sull'orlo di una scomoda sedia di legno dallo schienale verticale. Dal tumulto del suo cervello cominciarono ad affiorare alcune idee. Che disgusto! Quell'uomo grasso e tozzo ricordava vagamente una tartaruga, con la testa senza collo, incastrata nel grosso colletto. Aveva una faccia quadra e piatta, con certi baffi grigi a spazzola, ma non aveva ugualmente l'aria vecchia, pensò Iwan maledicendolo in cuor suo. Benché non fosse più giovane, aveva un aspetto giovanile ed era vigoroso, aspro e autoritario. Potrete forse darmi qualche informazione? Gli disse rivolgendosi proprio a lui. Sapete dirmi in quali città della Manciuria la banca di vostro padre ha delle succursali? Istantaneamente Aiwan si disse che non gli avrebbe rivelato nulla. Ora si ricordava di aver sentito una volta in Lan dire che i giapponesi erano sempre pieni di domande, sempre alla ricerca di piccoli particolari apparentemente inutili. Non so, disse. Strano, disse il generale dopo una breve pausa, fissando Aiwan. Ma non importa, io ho le informazioni che mi occorrono dal mio quartier generale. Vi domandavo un semplice particolare per discutere certo progetto col signor Muraki. Forse saprete quanto dista in ore di viaggio Pechino da Harbin. Ho trascorso quasi tutta la mia vita a Shanghai, rispose Aiwan. Una piccola vena azzurra si ingrossò sulla fronte del generale. Si volse al signor Muraki e disse forte: Lasciate il progetto allo stato che vi ho detto. Non sarà una vera guerra. 3 settimane basteranno per schiacciare pochi ribelli cinesi. Ora il tempo mi manca. Parto subito. Ma al mio ritorno mi prenderò una vacanza. S'arrestò un momento e soggiunse: La più felice vacanza della mia vita. Aiwan divorava quell'uomo con lo sguardo. Cominciava vagamente a sentire che il generale Sechi voleva punirlo, o almeno spaventarlo in quanto era un cinese. Una collera furiosa cominciò ad ardergli nel petto. Improvvisamente, tuttavia, le idee gli si schiarirono fredde nel cervello. 3 settimane sarebbero bastate, eh? Ah, qualche minuto fa gli sarebbe parso impossibile odiare il Giappone, ma ora aveva trovato qualche cosa di odioso e di odiabile. Era quell'uomo, quel signorotto arrogante, prepotente, ambizioso che gli sedeva davanti e che voleva sposare Tamabe. Non prevedete resistenze? Domandò tranquillo. Oh, se resistenze ci saranno, dichiarò con alterigia il generale, cominceremo con le bombe. Una vampa d'odio scosse Aiwan. Balzò in piedi, ma non importava tanto il suo odio quanto il fatto che non ci sarebbe stata guerra. Si volse di scatto, uscì un po' barcollante dalla stanza e chiuse la porta. Quando fu fuori, sostò un momento. Gli girava la testa, si sentiva male, ma le idee erano chiarissime. Doveva trovare Tamà per comunicarle che Seki in persona aveva detto che non ci sarebbe stata vera guerra. Passò una ragazza con un vaso oblungo pieno di fiori. «Dov'è Tamasan?» le domandò. La ragazza lo guardò sorpresa. «Nella veranda di Levante», rispose, «aggiusta i fiori». Non era mai stato in quella parte interna della casa, non essendo usanza che gli uomini la frequentassero, ma ora ci andò senz'altro attraverso la cucina e nel luogo indicatogli, in una piccola verandina quadrata, trovò Tamà sola davanti a un tavolo ingombro di fiori e di erbe. In quel momento sceglieva una manciata d'erba argentea e la collocava in un vaso di gigli rossi. Vedendolo, si fermò. Aiwan, come? Cominciò, ma egli ne interruppe. Tamà, esclamò, quel tale è un personaggio orribile. Lei non si mosse. Solo le mani stringevano nervosamente le erbe. Nei suoi occhi egli notò un'espressione di disgusto. Sì, è orribile, mormorò. Lo vidi ieri, dopo che avevo detto. Ma non c'è guerra, la interruppe Aiwan, lo dice lui stesso. Le raccontò quello che aveva sentito, poi pensò a suo padre e se ne valse, non senza sfrontatezza. Uomini come mio padre non permetteranno mai che ci sia guerra col Giappone e mio padre, Tamà, ha un potere enorme, illimitato. Una vaga reminiscenza del passato risorse e per un attimo lo oppresse. Come Lan lo avrebbe disprezzato per quella sua ragione, e Lan del resto non avrebbe mai capito i suoi sentimenti per Tamà. Egli non avrebbe semplicemente concepito che si potesse amare una giapponese. Si capisce che se non c'è guerra, disse lentamente Tamà, se non c'è guerra tutto muta, se non si tratta che della volontà di mio padre che cerca di imporsi, giuro che non ci sarà guerra, esclamò lui. Le ragazze di servizio cominciavano a ronzare loro intorno, fingendo di essere occupate nei lavori domestici. «Occorre aiuto?» disse una con voce flautata rivolta a Tamà. Un'altra la imitò. Aiwan le guardò torvo. «Mi fanno pensare a vespe», disse a Tamà. «Non c'è verso che ci lascino soli, ma io non ti lascerò fin tanto che non sia ben certo che tu sia al sicuro». Al sicuro nei confronti di te stessa, perché so che se hai preso certa decisione. Tamà lo guardò fisso con occhi che parevano più grandi. Era pallidissima. Nella sua agitazione, egli finora non si era accorto di quel pallore. Se non c'è guerra, disse, non lo sposerò certamente. E così, finalmente, egli ebbe la sua promessa. In questo caso ti chiederò a tuo padre. Disse gravemente Aiwan, contaci, sarò fedele alle vecchie usanze, come piace a lui, troverò una mezzana e farò i regali appropriati e tu non saprai niente fino a cose fatte. Ella tuffò il viso nelle erbe argentee che aveva fra mano e non disse nulla. Aiwan si inchinò, la guardò profondamente negli occhi e uscì. Quando si volse ancora a guardarla, la vide circondata dalle ancelle zelanti e poi nel giardino vide la signora Muraki correre così in fretta che le vesti sembravano una bandiera che li inseguisse. Ma che cosa gli importava? Tutto il necessario era stato detto. Senza prendere altro commiato e senza più vedere nessuno, lasciò la casa e tornò a Yokohama. Finalmente i giornali pubblicarono la notizia e gli strilloni la gridarono per tutte le strade. Non sarebbe scoppiata la guerra in Manciuria. Come Aiwan aveva previsto, arrangiamenti. Così i giornali erano stati concordati. Era stato chiesto l'intervento della Società delle Nazioni, il che significava che il governo di Chiang Kai-shek non voleva combattere. Aiwan intravide dietro a tutto questo la figura di suo padre che lavorava per la pace. Rivolse altrove i pensieri, inutile scervellarsi per le cose che non poteva né controllare né mutare. Pace, c'era la pace. Per lui voleva dire semplicemente Tamà, Tamà e lunghi, tranquilli anni di vita in comune. Era contento ora di essere giunto all'amore per Tamà non impulsivamente, bensì attraverso anni di amicizia e di buona conoscenza. In quel frattempo aveva avuto modo di pensare a tutte le evenienze e ora, arrivando il matrimonio con la pace, esso avrebbe dovuto essere e sarebbe stato eterno. Avrebbe vissuto la propria vita in disparte, lavorando, studiando, godendo con Tamà anni di pacifica, operosa esistenza. Non disse niente a nessuno, ma continuò ad elaborare i propri progetti, sicuro ormai di Tamà. Aveva già trovato un vecchio mezzano di professione, andò da lui e dietro compenso l'uomo accettò premurosamente di andare dal signor Muracchi e di sottoporgli la domanda. Datemi la vostra fotografia, disse il vecchio. Aiwan stava per rispondere che già lo conoscevano, ma si trattenne. Meglio che tutto si svolgesse secondo le usanze tradizionali. Attenendosi anche senza parteciparvi, c'era da essere sicuri che non si sarebbe incappati in errori. Egli ne aveva abbastanza di ribellioni, da esse non aveva mai ricavato alcun frutto. Si fece fare una fotografia e quando fu pronta, aveva pagato un prezzo speciale per l'urgenza. La diede al vecchio. Guardando la propria immagine, la trovò del tutto normale. Era pallido e abbastanza banalmente solenne negli abiti occidentali. Il fotografo giapponese, sforzandosi di migliorarlo, gli aveva ritoccato le fattezze, dando loro una curiosa espressione giapponese. Gli occhi guardavano stupiti, la bocca non era propriamente la sua, ma che cosa importavano quei particolari? Io, dal canto mio, vi porterò la fotografia della vostra bella, disse con una punta di malizia l'uomo. Potrete guardarla allora finché vorrete. Niente guerra. La vita in fondo continuava mica male, pensò Aiwan, camminando allegramente per le strade anguste e animate. Si fermò, comperò un giornale e lo lesse camminando. Ma non si capiva niente. Sapeva ora che uomini come il generale Sechi facevano dire ai giornali soltanto quello che volevano fosse detto. In grandi titoli si parlava di battaglioni di rinnegati, di banditi che creavano disordini perché non volevano arrendersi ai giapponesi. Se Enlan era ancora vivo, era certamente fra quelli. Ma certo era morto. Per colpa di quei banditi, diceva sempre il giornale, i giapponesi erano riusciti a stento a ristabilire l'ordine e la sicurezza. Impossibile peraltro capire che cosa si volesse dire con ordine e sicurezza. Ma la formula significava certo la pace che Aiwan desiderava sopra ogni altra cosa, con tutto quello che essa comportava. Voleva che Tamà fosse sua moglie, che gli preparasse la casa, ne aveva abbastanza di tutte le cause politiche. Quando si fosse creato la sua nuova casa, avrebbe scritto a suo padre. Buttò per aria il giornale. Il vento lo prese allegramente e lo soffiò via, schioccante, per la strada, come un aquilone. Non pretendeva che il vecchio agisse rapidamente e perciò attese con pazienza. Di notte, svegliandosi, fantasticava a lungo oppresso dall'oscurità. Temeva di aver nutrito troppe speranze e che Tamà, dopo tutto, non fosse poi così sicura di sé. Ma poi, tornato il giorno, si ricordava della ferma occhiata con cui lo aveva congedato. In lei lo sentiva, c'era una grande stabilità, nulla della leggerezza un po' frivola di Peonia. Se Tamà aveva detto che avrebbe fatto una cosa, poteva star certo che avrebbe mantenuto. Non che non fosse ligia ai propri doveri, avrebbe sposato, se necessario, anche il generale Sechi, ma non apparteneva alla categoria delle giapponesi vecchio stile che ciecamente obbediscono all'uomo che le comanda. La stessa ostinazione, insomma, che poteva spingerla a compiere determinati atti, poteva spingerla a compierne altri contrari, per poco che le fossero parsi giustificati. No, egli aveva fiducia in lei. Così rincuorato, continuò tranquillamente il proprio lavoro. Nuovi carichi arrivavano e partivano ogni giorno. S'abituò a presiedere alle operazioni di disimballaggio, all'afflusso di merci e di tesori cinesi di ogni specie, alla vista di Shio che occhieggiava su tutto e sceglieva gli oggetti che gli piacevano per tenersi per sé. L'istinto non tradiva mai Shio, tutto quello che era inestimabile se lo teneva. I bianchi spiegava Daiwan, quasi scusandosi, non conoscono la differenza che intercorre fra quello che è semplicemente raro e l'oggetto che invece è unico e perfetto. Le cose perfette le terrò in Giappone, nel paese a cui appartengono per diritto, il più naturalmente atto ad accoglierle. In avvenire, tutto quello che nel mondo è perfetto sarà nostro. Nessuno pregia alla bellezza quanto noi. Aiwan non rispose, non rispondeva mai a Shio. Shio era un uomo straordinario, aveva un culto avido, tutto suo, della bellezza. Pareva che il suo vero nutrimento lo traesse dalle porcellane, dagli avori, dai dipinti e dalle tappezzerie che amava. Quando era stanco, e gli capitava sovente di esserlo perché lavorava lunghe ore e mangiava poco, oltre a essere di natura piccolo e mingherlino, bastava che carezzasse qualche statuetta di giada o un vaso di porcellana o di vetro, perché una specie di pace lo pervadesse. Allora pareva più forte e come nutrito. Nel palmo della mano stringeva sempre un pezzo di giada bianca, diventato ormai untuosamente liscio per il lungo uso e caldo come la carne. Quando sedeva ai suoi conti, borbottando sulle cifre, appoggiava una guancia sulla mano che stringeva la giada. Diceva che lo preservava dal mal di capo. Aiwan, guardandolo ora con una curiosità nuova, non vedeva nulla nella sua pallida faccia che ricordasse le tonde guance e la sana espressione di Tama. E tuttavia Shio e Tama erano del medesimo sangue e un giorno Shio sarebbe stato suo fratello e magari qualche po' del suo sangue sarebbe passato nei suoi figli. Comunque, Shio era un uomo innocuo e se si lasciava incantare dalla bellezza, altri si lasciavano incantare da cose meno nobili. Qualche volta Aiwan pensava che il Giappone aveva una specie di mania per la bellezza. C'erano dei poveri nutriti di un pugno di riso freddo che trovavano lo stesso i pochi centesimi necessari all'acquisto di semi e di vasi di fiori. Tamane era certo avrebbe tenuto bella e fiorita la loro casa, educata com'era a considerare vuota una stanza se priva di fiori. Il vecchio Mezzano non si rifece vivo che al 18° giorno del mese successivo, quando Aiwan già cominciava a passare notti insonni nel tema di qualche guaio. Stava almanaccando sull'opportunità o meno di andare ad accertarsi dell'andamento dei negoziati, quando improvvisamente, rientrando una sera in camera, trovò il suo uomo che fumava placidamente la pipa seduto su una poltrona. «Dove siete stato?» gli domandò impetuosamente Aiwan, dopo che quello lo ebbe accolto con una pacifica esclamazione. A fare il mestier mio, rispose serenamente il vecchio. Io ho avuto la mia gatta da pelare, ve lo assicuro. Il vecchio pretendente, ammiccò e soggiunse, si è dovuto fare del nostro meglio, ma la signorina ha fatto le cose per benino. Il padre si è opposto a tutta prima, adducendo che cambiare le carte in tavola era offensivo per il vecchio pretendente, ma la signorina, ripeto, se l'è cavata benone. Come? Dicendo che si sarebbe ammazzata, rispose senza la minima emozione il vecchio, e dico, faceva sul serio e l'ho vista io. Detto fatto, prese un coltello che teneva in serbo nella cintola e si segò le vene dei polsi davanti ai nostri occhi. No! Gridò Iwan. Il vecchio scosse il capo profondamente. Meglio, si segò le vene di un polso e poi stava per segarsi quelle dell'altro. Ma la madre pianse e svenne e il padre le gridò di aspettare. E lei aspettò, col sangue che le sprezzava dalla ferita inzuppando la stuoia. Si vedeva che gli piaceva raccontare il fatto, ma Aiwan era più morto che vivo. La madre si riebbe presto e gemette non so che cosa sul destino che la privava dei figli. Se non erro, voi mi avete detto che c'erano dei figli maschi. Uno è morto da poco e uno, il più giovane, è nato dopo la ragazza, è partito per la Cina, mobilitato. Ah, disse il vecchio a bocca aperta per l'interesse. Poi il padre disse: aspetta, esamineremo la cosa. Così io aspettai e grazie a certo espediente, una ragazza figlia di un barone di una prefettura presso Kyoto, aspirante ad avere per genero un generale, si disse disposta a sposare Sekiji. Tanto più che il suo fidanzato era scappato con una moga, causando uno scandalo da non dirsi e lasciando gli abiti nuziali pronti. Peccato non goderli. Grazie dunque Ah, questo espediente, per cui ai genitori della ragazza parve un dono del cielo trovare un generale per quanto vecchio e grasso che salvasse la situazione, tutto è andato a posto. In quanto a voi, siete pregato di non presentarvi alla casa della vostra fidanzata, bensì all'albergo sul mare, nel quartiere meridionale della città. Là troverete la famiglia e discuterete, bevendo il tè, così come è costume. Si fisserà poi la data del matrimonio, così come è nelle consuetudini, e l'affare può considerarsi come concluso. Ma e il suo polso? Domandò Iwan, che non riusciva a dimenticare la visione di Tamà sanguinante. Brutta ferita, ammise il mezzano, ma io sono certo che la ragazza sapeva benissimo che quell'esibizione del suo sangue avrebbe indotto alla resa i genitori. Il vecchio genitore fino ad allora aveva tenuto duro, ma quando vide la figlia compiere quel gesto capì che ella era più ostinata di lui. Beh, ora che tutto è fatto, vi do un consiglio. Affrettatevi a regolare le vostre cose secondo il vostro talento, precedendo in certo senso quella che sarà vostra moglie, perché quando una donna è ostinata non c'è verso di spuntarla. Tosì trasse un pezzetto di carta dalla manica, ci sputò pulitamente sopra, e lo depose con garbo sotto la tavola dove un servitore sarebbe venuto a spazzarlo via. Poi aspettò, seduto sulla poltrona, il compenso dovutogli. Aiwan rise, s'alzò e lo pagò. Vi darò altrettanto il giorno del matrimonio, disse. Il vecchio prese il denaro, lo piegò per benino e se lo cacciò nella cintola. Voi cinesi, disse, non guardate mai oltre il domani. Ma domani è solo il principio del tempo. E il matrimonio non è che il principio della vita coniugale. Ah sì, così è. S'alzò, tossicoloso e ammiccante, e se ne andò. La cosa per lui non aveva particolare importanza, ci viveva lui di quegli affari. E nel caso attuale era stata una bazza per lui che la ragazza fosse stata risoluta a sopprimersi piuttosto che sposare il vecchio generale. Partito il vecchio, Aiwan cominciò a preparare febbrilmente le valigie. L'indomani mattina sarebbe andato da Shio e gli avrebbe domandato un permesso spiegandogli il perché. Non poteva aspettarsi un interessamento da parte di Shio superiore al rinvenimento di un pezzo di antica giada, ma doveva ugualmente considerare Shio come un fratello maggiore e onorarlo come tale. Voleva fare tutto quel che doveva essere fatto per amore di Tamà che era stata pronta a morire per lui. Per amore di Tamà si assoggettò al formalismo della riunione nell'albergo, dove gli toccò incontrarsi col signor Muraki e consorte, presentandosi come se fosse un estraneo. I coniugi comparvero vestiti in modo straordinario, in vesti di gala di spessa seta nera, con amici e parenti che Aiwan non aveva mai veduto. Nel gruppo fece una breve apparizione Tamà, una Tamà che gli era ignota, al pari degli altri. Si era pettinati i capelli all'antica, con grande uso di olio e di spazzola, e si era pitturata la faccia di rosso e di bianco. Quando si inchinava, lo faceva col vacuo sorriso della vergine giapponese ben educata. Aiwan non seppe che cosa dire, ma si rassicurò quando, incrociando il suo sguardo, la vide aggrottare bruscamente la fronte. Gli occhi erano luminosi e ridenti, pieni di malizia. Faremo la commedia fino in fondo, sembrava dire. Non gli restò che rassegnarsi e fare il dovere suo sino alla fine. Persino quando il signor Muraki pose come condizione una lettera di consenso da parte del padre cinese, Aiwan non si oppose, sicuro com'era che sarebbe stata favorevole. A suo padre, infatti, non sarebbe parso vero poter dimostrare la sua amicizia per il Giappone. Al posttutto si sarebbe detto che suo figlio sarebbe rimasto cinese e che una donna, giapponese o no, importava poco. Tama, insomma, contava come nuora, non come giapponese. La lettera, quando arrivò, fu quale aveva previsto. Aiwan. Il signor Wu scriveva al signor Muraki per informarlo che era felice di contribuire alla pace fra i due paesi. Noi dovremmo legare strettamente i nostri due paesi, e quale modo migliore di questo? Ad Aiwan scrisse: Nel mondo non esistono donne meglio educate delle giapponesi. Sono docili, umili, obbedienti, buone massaie. Vivrai una buona vita familiare. Quando sarà passato un certo tempo, portaci tua moglie, la vedremo volentieri. Ma per ora non portarla. La gente qui nutre sentimenti irragionevoli di odio contro i giapponesi, specie dopo i recenti disordini, Il volgo è sempre ignorante e lontano dalla verità. La situazione in Manciuria sarà sistemata secondo ragione. Comunque, aspetta ancora un poco prima di portare in Cina la tua moglie giapponese. Haiwan, riponendo la lettera di suo padre, sorrise. Non aveva nessuna voglia di tornare in Cina. Non importa se con Tamao senza. Certo, senza di lei non sarebbe tornato.